time resto. Sì, perché c'ho la vibrazione e non ho visto la chiamata. Sì, sto facendo molto schifo. Sì, no, in effetti sto suonando malissimo gli ultimi 2-3 giri. Ma io non l'ho proprio visto quello che mi hai scritto, in realtà ho pensato di suonare male fin dall'inizio, capito? Cioè, no. Harry! Oh, scusa un attimo, no, aspetta che sono con il mio compagno. C'è il mio compagno che parte. Dico, poi, che non è presto. Sì, ma io... Ma lo sai cos'è? Che mi hai sentito suonare male dopo, perché pensavo di... cioè volevo fermarmi perché pensavo di che stavo suonando malissimo. Ho detto vabbè, mi sono un po' scoraggiato.